Credo che questo magistrato sia stato abile nell'ingannare il Consiglio Superiore. Lei perché invece si era espresso sul solco dell'apparire dato dal Consiglio Giudiziario, cioè quindi contrario alle promozioni che sono state pur date a questo giudice? Davo molta importanza al parere del Consiglio Giudiziario, che essendo un organo del territorio, come si usa dire, conosce i giudici, e quindi quella valutazione non positiva faceva immaginare qualche cosa che magari non era scritto. Questo credo che debba insegnare maggior rigore, una maggiore determinazione per il futuro. È facile adesso dire che è stato fatto un grave errore. Ma secondo lei il frutto di quella valutazione, c'è una forma di difesa corporativa? Questo è un po' inevitabile in tutte le categorie professionali, però devo dire, credo che ci sia anche un atteggiamento rigoroso in materia di valutazione della professionalità.